per il comune di Crevalcore, la stagione teatrale Tre Teatri per Te con Da Lontano. Un rapporto particolare tra genitori e figli, un rapporto che, ammetto, purtroppo ho vissuto anch'io. È un po' un cortocircuito, è quello di trovarci in una situazione che sapremo approfondire insieme alla nostra protagonista qua con noi. Buongiorno e benvenuta, Isabella. Buongiorno, ciao a tutti. Puoi approfondire un po' questa situazione di prendersi cura dei propri genitori trovandoci in un aspetto un po' di ossimoro di vita? Ma guarda, in realtà lo spettacolo nasce in una maniera un po' strana, nel senso che è nato in questi tempi, diciamo, all'inizio è iniziato da una chiacchiera telefonica con Lucia Calamaro perché eravamo tutti isolati. E abbiamo pensato a uno spettacolo come un teatro terapia, in qualche modo. Ci mancava il pubblico e quindi l'idea di coinvolgerlo in qualcosa, come hai detto tu, che forse ci riguarda, penso che nessuno non possa sentirsi escluso dall'argomento di questo spettacolo. Però lo fa in una maniera ovviamente teatrale, in cui Da Lontano è uno spazio in cui accade qualcosa di soprannaturale, cioè nel senso questa psicoterapeuta che interpreto io ha la possibilità di parlare con sua madre alla sua stessa età, cioè da coetanee. Quindi incontrare una mamma giovane, una mamma che quando lei era piccola stava male e lei da bambina non ha potuto aiutare perché non aveva i mezzi, ecco, non era adulta, e quindi è una sensazione di impotenza forse che abbiamo provato tutti, perché fondamentalmente il genitore è un po' il primo altro che conosciamo nella nostra vita, no? Ci rendiamo conto che gli altri vivono, hanno le loro sofferenze, le loro gioie indipendentemente da noi. Ecco, questo passaggio secondo me è qualcosa che abbiamo vissuto tutti. Ecco, lo spettacolo parla più di questo, ecco, di questo incontro immaginario, immaginifico con una mamma, la mamma di quando lei aveva 5 anni, ecco. Sì, indubbiamente. Io mi permetto di entrare con un'idea che fra l'altro è anche un'emozione soprattutto che stai regalando, perché io, unico figlio maschio di un papà che non è invecchiato, e quindi me lo ritrovo costantemente, certo. All'età di 35 anni mi ritrovo di fronte a una fotografia di un ragazzo, quindi ti puoi immaginare, certo, come ho vissuto le tue immagini e le tue narrazioni su questo rapporto che c'è invece. Guarda, ma è uno spettacolo, in questo io ne ho fatti nella vita, ma devo dire che questo è uno spettacolo molto intimo, molto uno strano oggetto, qualcuno ha detto un piccolo gioiellino, perché non tanto perché voglio insomma innalzare lo spettacolo, ma perché accade sempre ogni sera qualcosa per cui viene qualcuno a dirmi: ma hai parlato, ho sentito, ha risuonato qualcosa che mi appartiene. Ecco, penso che il teatro di Lucia abbia anche questa grandissima capacità. Spesso mi chiedono: ma in qualche modo parla di te o parla di Lucia Calamaro? Ma forse sarebbe riduttivo dire parla di qualcuno, di me o di lei. Insomma, è qualcosa che ci riguarda e che forse in questo periodo abbiamo avuto modo anche di sentire di più. Sì, e poi, come hai detto giustamente, va a scatenare delle emozioni, delle sensazioni che abbiamo vissuto o con questa dimensione o in altre dimensioni nel dialogo con i genitori. Con il genitore, ma poi una frase molto bella dello spettacolo, nel senso ci si ripropone sempre nella vita quando non siamo all'altezza del dolore degli altri, no? Quando ci troviamo un po' goffi, impacciati di fronte alla sofferenza dell'altro, no? Quindi reagiamo con indifferenza o muovendoci male, no? Perché c'è sempre questa distanza da colmare tra noi e l'altro che diventa complicato. E forse, appunto, io come attrice ho questo grandissimo privilegio di mettermi nei panni degli altri, no? Quindi è quasi un esercizio che faccio quotidianamente, quello di entrare nella pelle delle altre persone, quindi mi tocca in questo senso in maniera molto particolare. Detto, c'è anche uno spettacolo che è divertente, perché c'è anche un momento, è un monologo dialogo, perché io dialogo con una voce che è questa madre, ci sono le dinamiche tra madre e figlio, insomma, sì. Quindi anche molto riconoscibile anche quelle, perché si ripetono un po'. sempre. Da lontano, con chi sarà in scena? Entriamo sul palcoscenico, anticipiamo un po' anche questo. Ma guarda, c'è con me appunto questa voce, poi niente, un monologo, quindi ti dicevo, non voglio svelare troppo, ma un finto monologo, come ti dicevo, è nato in tempi in cui non era possibile anche fare grossi spettacoli con tanti attori per ovvie ragioni, quindi abbiamo pensato a un monologo, però nello stesso tempo c'è una relazione, ecco, quindi c'è Emilia che sta con me sul palco è una scena molto astratta, ecco, è un muro con una porta e quindi c'è questo dialogare, monologare di questa psicoterapeuta che forse ha fatto proprio la psicoterapeuta per avere i mezzi per comprendere, no? Finalmente riuscire a psicoanalizzare la madre e riuscire a capire perché non stava bene, no? Penso che la sensazione del bambino di sentire che i genitori non sono sempre felici, hanno anche i loro problemi, la loro vita è un passaggio fondamentale di crescita di tutti, ecco. Sì, assolutamente, è una scena minimale che già tu hai anticipato, una parete, una porta anche metaforica, come tu hai già detto, che si apre su ricordi, problematiche, ma soprattutto una crescita che colpisce e ispira questa nostra narrazione. E quindi ricordiamo l'appuntamento dal 19 gennaio alle ore 21 all'Auditorium 1 maggio a Crevalcore, appuntamento importante da lontano con noi Isabella Aragonese. Io ti ringrazio tanto, ti auguro buona giornata e ci vediamo a teatro. Grazie a te, buona giornata, buon lavoro e vi aspetto.